Eccoci, siamo di nuovo qui, siamo di nuovo Radio Plaza. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è sabato 23 ottobre, siamo tornati da poco da Casoria. Terra nostra, siamo stati tutta la giornata lì, che bella giornata. Siamo un po' affaticati. Una lunga giornata, tanta fatica ma tanta bella energia. Questa è Radio Plaza. Ricordiamo che queste puntate serali delle 21.30 di Radio Plaza ci saranno tutte le sere per accompagnare la Gira Zapatista. Infatti questo è il giornale Radio Plaza dal titolo Gira, Gira, Gira Zapatista. Bene, il racconto della giornata, voci, suoni e emozioni dal primo incontro con la delegazione zapatista. La voce di chi ci ha messo la faccia, intervista al compagno Ciro di Rivolterra. Cosa succederà domani? Domani presentazione del prossimo appuntamento. E poi spazio alla rubrica di arte e cultura, suggestioni e suggerimenti da un esperto trovato proprio così. E poi per ultimo le favole del subcomandante Marcos, un racconto al giorno prima di dormire. Iniziamo? Iniziamo. Partiamo con il racconto della giornata, voci, suoni e emozioni da questo incontro specialissimo di oggi a Casoria. Terra nostra. Terra nostra. Quanto sei stanco? Che dobbiamo fare? Quanto sei stanco? Che dobbiamo fare? Niente. Ah, meno male. No, molto. Ti sto solo registrando. Sono molto stanco. Allora, voci dal posto, dai, veloce. Un posto, com'è stato? Com'è stato? Com'è stato? È stato bello, emozionante. Penso che la gente ha potuto esprimersi, lo scompagnero e la scompagnera hanno potuto ascoltare, sono rimasti contenti, mi sembra. Noi siamo contenti. Io sono contento, parlo per me. Bene, grazie. Vado in giro. Com'è andata questo incontro? Guarda, secondo me benissimo, e c'è un momento in cui mi sono emozionata. Dai, quando ti sei emozionata? Se era perché la radio, quando a un certo punto la compagna ha chiesto come ci si è organizzati per resistere all'attacco, e uno dei primi mezzi è stata proprio la radio comunitaria. Grande, l'ha la Mafalda! E io proprio, sì, sì! Allora ti è piaciuto, quindi andiamo avanti. Ma direi di sì proprio. Adelante. Vado avanti. Allora, com'è andata? Come sta andando? Bello. Dai, com'è? Emozionante, per me è emozionante. Sì? Quindi andiamo avanti. Avete visto quando ho fatto la domanda come ero timida? Neanche il microfono ho voluto. Però questa storia dell'acqua è veramente allucinante. Io sono arrivata così, senza dirvi niente, ma vi sto registrando. Ed è allucinante, sono molto stupidi quelli delle città. I messicani ancora non hanno capito che prima o poi l'attacco arriverà anche a loro. Loro pensano di essere garantiti. Quindi dovremmo portare veramente noi la testimonianza di quello che succede nelle nostre città. Che adesso tutti muovono il culo per le manifestazioni, anche qui i cittadini, perché l'attacco è globale. Bene, bene, benissimo, grazie. Qua si scola la pasta. A che punto siamo in cucina? Ah, siamo a buon punto. Cioè, la pasta è cotta? Allora no. Brodo? Brodo vegetale. Brodo vegetale? Beh. Carote, cicula, pomodori, sedano e patate. Vitaminico? Spinna all'arrabbiata. Spinna all'arrabbiata. Anche farlo entrare. Allora, com'è andata questa prima parte? Molto interessante e spero la seconda sia altrettanto bella. Poi c'è ancora la terza. La terza. Una lunga giornata. Benissimo, siamo attrezzati per comodità. Molto interessante, veramente interessante. Per noi che viviamo una piccola realtà operativa è importante incontrarci anche dopo questa giornata. Grande, perfetto. Sperando che questo riusciamo a concretizzarlo. Siamo in cerco di incontri. Perché dobbiamo mandarti così, a un passante. Com'è andata? Allora, secondo me è andata molto bene, soprattutto per il carico di emozioni che ci hanno passato e secondo me anche i momenti in cui si è sottolineata l'importanza dell'unità delle lotte, secondo me è sempre fondamentale, ancora di più se viene da loro e quindi è andata molto bene fino adesso e sono molto contento. E come andrà? Andrà ancora meglio. A dopo. E allora rientriamo in studio. Dopo aver ascoltato tante voci di oggi, ricordiamo che oggi siamo stati stamattina, oggi pomeriggio, siamo stati a Casoria, a Terra Nostra, dove abbiamo ascoltato, abbiamo parlato, abbiamo mangiato, abbiamo fatto la radio. E c'era Rivolterra. C'era Rivolterra ed è per questo che adesso facciamo proprio parlare una voce di Rivolterra. La voce di chi ci ha messo la faccia. Sì, parliamo con Ciro di Rivolterra. Ciro di Rivolterra, vediamo se si sente. Ciro, ci senti? Ci senti? Ah, adesso ti sentiamo, Ciro. Buonasera. Buonanotte. Notte, la notte è giovane. Perché di male mattina è netta qua. Beh, è partita subito così l'intervista con Ciro. Allora Ciro aspetta. Noi abbiamo una serie di domande da fare, però non le faremo. Noi te le facciamo, poi, perché, poi fanne tu quello che vuoi delle domande che noi ti faremo. Allora le domande... Non ho capito, Ciro. Fatene una alla volta. No, aspetta, invece, allora io ti chiedo, facile, guarda, proprio facili, facili, facili. Posso fare io subito una domanda? Ciro, puoi metterti un po' più vicino al microfono così si sente meglio? Come si sente adesso? Ah, adesso molto meglio di prima. Io non so dov'è il microfono di questo giocattolo che sta in mano. Intanto mettetelo il più vicino prova, possibile. Prova la posizione migliore. Allora, andiamo quindi all'intervista con Ciro di Rivolterra. Allora, Ciro, ci interessa sapere chi è Rivolterra, cosa fa e perché ha deciso di appoggiare l'accoglienza della gira zapatista in Campania. Tre tutte insieme, te le ho fatte. Non ne facciamo più. No, anche perché me la già scrivere di nuovo, non mi scordo. Ogni tanto voi ricordatemele. Allora, partiamo. Facciamo la prima. La prima. Chi sei? Chi sei tu, Rivolterra? Che cos'è Rivolterra? Allora, Rivolterra, caro Carmine, cara Anna, dipende grazie. Un po' da con chi parlate. Grazie, caro, era un eufemismo, Carmine. Ma io ci avevo creduto, Ciro. Sarà lunghissima l'intervista con Ciro. Tanto sì, fammi parlare a me. Dai. La questione è semplice, dipende da un po' con chi parlate, però di fatto non è tanto capire dal percorso che ha portato la nascita di Rivolterra, ma più o meno quello che poi si è detto che voleva essere. E uso la parola voleva essere perché di fatto ultimamente abbiamo messo in discussione anche ciò che volevamo essere. E mo arriviamo al dunque. Allora, vuole essere o voleva essere una rete che mettesse insieme praticamente la componente diciamo urbana, una componente rurale, produttori, consumatori, comunque il concetto di rete è abbastanza chiaro, cioè una serie di soggetti con interessi comuni per portare praticamente alla realizzazione di un approccio comunitario e solidale tra una componente diciamo di produttori e una componente di consumatori, no, a prescindere da uno dove sta, se in campagna o in città, però l'idea era mettere insieme una serie di soggetti e muoversi come rete per affrontare le diverse tematiche e problematiche. Dopo un anno più o meno di discussioni ferrate, abbiamo tirato anche fuori un manifesto che è stato anche, spero, letto stamattina o comunque consegnato in spagnolo anche alla delegazione zapatista. Sì, sì. Però neanche a farla apposta, quattro giorni fa, abbiamo fatto una bella riunione in cui ci siamo detti che forse tanto rete non siamo, ma forse siamo un collettivo che tende e propenso a diventare una rete. Ma di fatto oggi i soggetti che fanno parte di Rivolterra si approcciano a Rivolterra come soggetti individuali, anche quando alle volte vengono con delle sigle collettive. Quindi invece di essere una struttura, parlando un po' più tecnicamente, una struttura di secondo livello, siamo una struttura di primo livello con una partecipazione individuale e non una partecipazione di collettivi all'interno di Rivolterra. Diciamo, Ciro, un buon inizio. Un buon inizio, su 4 anni stanno usando per arrivare alla chi mai inizia comincia a faticare. Sì, questo è vero, un piede davanti all'altro, abbiate pazienza. No, se vogliamo iniziare con i luoghi comuni usciremo pure su. Noi siamo per i luoghi comuni. Non i beni comuni. Stavo per dirlo, al massimo i beni comuni. Mettiamo i beni in comune, andiamo avanti. Comunque, penso che il concetto di che cos'è e cosa vorrebbe essere, o cosa tende ad essere Rivolterra, penso di averlo più o meno declinato. Oggi come oggi, se voi ti faccio più o meno un elenco veloce, diciamo che formalmente all'interno di Rivolterra ci sono la realtà dei Gatti dei Fiarielli, che è un collettivo, ma di fatto non ci sta. Ci sta Terra Nostra, che forse è l'unica realtà dei non beni comuni, perché come sapete Terra Nostra non è un bene comune, ma è uno spazio occupato che partecipa, tra virgolette, come collettivo. Ci stanno praticamente diversi produttori, tra cui il birraio Vincenzo, il sottoscritto Panetti Le Ciro, Sofia dei Limoni. C'è un centro di alimentazione consapevole nella persona di Marina, e chi altro c'è in questo momento, più o meno? Più o meno, forse mi scordo con Krum, ma più o meno questi siamo, cioè, più o meno questo è. Di fatto all'interno ci doveva essere anche, c'è l'asilo, però di fatto Maria Francesca ha un po' in difficoltà a far starci dentro l'asilo. E poi ci dovrebbe essere lo scumizzo, ma di fatto non ci sta, e quindi perciò diciamo che tendenzialmente, dopo un'analisi realistica di ciò che siamo, abbiamo convenuto, come si vuol dire in italiano, che in rete non siamo, ma collettivo che tenga rete. Grande collettivo. Qual è la prima? Qual è la seconda domanda? No, diciamo che la prima e la seconda forse le hai già, però la seconda era cosa fate? Però più o meno c'è già raccontato. No, facciamo tante che li chiacchiere, mamma mia. No, nel senso che, come vi ho detto, ci è voluto un anno e mezzo per tirare giù questo benedetto manifesto. E che avete però anche tradotto in spagnolo. Ragazzi. E io l'ho visto. Tu l'hai visto, bravo, tu l'hai sentito, come ci vedo. Girerà tra le mani degli zapatisti. E a proposito degli zapatisti, Ciro, perché Rivolterra sceglie di accogliere la delegazione zapatista, di partecipare a questo evento? Visto i presupposti. I presupposti erano buoni, erano in potere. Il perché della scelta di appoggiare la gira zapatista è nel DNA, cioè nel senso che comunque il movimento zapatista fa una lotta che non è una lotta su una specifica cosa, ma è una lotta che racchiude diverse lotte. La nostra situazione come Rivolterra voleva essere quella di approcciarsi a 360 gradi alle questioni, e quindi in qualche maniera è connaturale che uno sposa, diciamo, un compagno che vede come uno che cammina sulla stessa strada. Il problema è stato che abbiamo accettato di accogliere la gira zapatista, abbiamo fatto anche qua un altro anno di questioni e di riunioni praticamente inutili, perché alla fine praticamente da quando si doveva fare il campeggio a Terra Nostra, da quando si doveva fare Mari e Monti, alla fine ognuno si è fatto il proprio piccolo orticello, una piccola manifestazione quotidiana, e di quello che voleva essere il seguito della venuta degli zapatisti io non vedo nulla. questi sono arrivati. Sono vabbè, ma perché è buio, è sera, perciò non si vede bene. Non si vede bene. Bene. Perciò denunciare la turba challenge. No, non è questo. La realtà di fatto è che la premessa a questa venuta degli zapatisti, a parte portare di nuovo alla ribalta un movimento che, diciamo, in qualche maniera era da tempo che non tornava all'interno delle situazioni, anche proprio come dinamica, come rivendicazione, come parole d'ordine e così via. Quindi, a parte questo risultato che l'ha ottenuto, perché diciamo che per un anno e mezzo si è parlato degli zapatisti, si è parlato della nuova lotta, abbiamo fatto una serata al CAP dove abbiamo ripreso un video bellissimo fatto da un collettivo russo in cui prende portava un attimo alla riba, cioè proprio la cronostoria e tutto questo, che dopo 20 e basta anni di lotta, forse qualcuno che è nato dopo gli anni 90 probabilmente sapeva poco e niente, se non addirittura sbagliare a scrivere Chiapas come Chiapas. Però diciamo, a parte questo, questo risultato l'abbiamo ottenuto, cioè l'hanno ottenuto loro o l'abbiamo ottenuto noi che abbiamo fatto l'accoglienza. Quello che non abbiamo fatto è creare questa, diciamo, sinergia reale sulle parole d'ordine, sull'agenda, diciamo, politica che abbiamo proposto durante gli incontri, perché come sapete ci saranno 4-5 giorni in cui ci saranno diverse tematiche politiche che poi si realizzano nella quotidianità dell'incontro con le comunità in lotta, con i movimenti in lotta, con la visita di diversi luoghi, simboli anche delle lotte, però di fatto questa cosa rimane a sé stante. Non c'è nessuna prospettiva che i soggetti che hanno fatto questa accoglienza si rivedano domani per fare qualche altra cosa insieme o per comunque tessere una famosa rete comune per affrontare i problemi, ognuno con la propria specificità, però a 360 gradi. Allora, è stato un'enorme delusione. Ok, però questa è la grande proposta che Ciro fa ai microfoni di Radio Plaza. Infatti, è quella di costruire, avere tenacia e pazienza da contadino per costruire quello che può essere la rete di cui parla Ciro. Noi siamo contenti, Ciro. Sì, infatti chiudiamo. Io sono un po' deluso da tutto questo, perché dopo un anno e mezzo ritrovarsi con un'agenda di 5 incontri che però, cioè, non sa zicca non sì, ma se non per dire io te lo accompagno, tu me lo accompagni e dopodiché tu ti fai la tua, io mi faccio la mia, mi sembra un po' deludente. Però sì, io continuo a dire, continuiamo a provarci e provarci. Anche perché ecco, sono, Ciro, allora chiudiamo sono vent'anni che ci conosciamo questo con incontro, Ciro, questa telefonata, sempre piacevole con Ciro, proprio su questa scia di quella del continuare a provarci, e quindi diamo un senso anche a questa denuncia così forte. Un seguito. Grazie Ciro per aver accettato di partecipare. Non so se gli altri saranno contenti uguale, però sì, va bene. Spero di sì, no, possono fare possono chiamare in radio e fare un controintervento. Cioè. Magari. Li io diretto con gli ascoltatori. Chiunque voglia chiamare in radio, faccia un numero qualunque e vede però, che succede. Visto che come al solito Alessio potrebbe chiamare per dire che non è d'accordo con me. Perché Alessio spesso non è d'accordo con gli altri in generale. A prescindere, quindi spero che chiama per dire guarda, dagli e non hai detto la lettura. Ma mentre aspettiamo la chiamata di Alessio, possiamo andare col prossimo brano, ci Ciro? Ci ascoltiamo un bel brano di musica. Va bene, allora salutiamo Ciro. Grazie per essere intervenuto, un abbraccio, Ciro. Ciro. Grazie. Meno male che ci sei sempre, Ciro. Ciao. Meno male. Ci vuole gente che parla come parli tu. Andiamo avanti, quindi quello che ci ascoltiamo tra breve e immediatamente, direi, è Johan di Giovanni Allevi dall'album Roma del collettivo Sole Luna, l'anno è del 2003, questa è Radio Plaza. Thank you. Eccoci qua, rientriamo in studio dopo il brano di Giovanni Allevi. Che ha portato un'area di leggerezza, allegria, ma anche tanta anche energia di, positiva. Di, anche di frizzante, sì. Come l'intervista a Ciro, bella frizzantina. Bella sfrugugliata, diciamo. Sì, andiamo avanti con la prossima rubrica. Siamo al momento di cosa si farà domani, quindi vi raccontiamo cosa succederà domani, domenica 24. Sì, siamo al 24 ottobre, domenica. Domani mattina saremo di nuovo a Marigliano per un incontro con le scuole di italiano per stranieri proprio a Marigliano, visto che ci sono due associazioni del territorio che si occupano di italiano per stranieri ogni domenica, e quindi domani le incontreremo e parleremo in generale dell'argomento. Parleranno gli zapatisti? O ascolteranno? Ascolteranno anche. Vabbè, invece, ci sono storie da raccontare. Da raccontare e da ascoltare, ovviamente. Nel pomeriggio invece a Scampia continueremo a parlare di educazione sotto anche altri aspetti, si parlerà dell'educazione in generale, tra resistenza ed autonomia, con tante realtà, si spera tanti ragazzi, speriamo tanti ragazzi e ragazze che dovranno raccontarci. Anche se questi incontri, diciamo, anche se sembrano specifici o comunque con un pubblico selezionato, in realtà sono valide per tutti, diciamo, i principi su cui si basano gli incontri credo che siano di grande formazione per tutti. Certo, poi se parliamo di temi come l'educazione non si parla solo di educazione scolastica, ma parliamo di tanto altro. No, anche perché io credo che i temi dell'educazione dovrebbero interessare veramente tutti e non specifiche categorie, studenti, professori, ma chiunque si approcci al rapporto, alla relazione con l'altro dovrebbe avere delle percezioni o comunque dei resoconti anche dai mondi che non frequenta direttamente. E quindi poi in serata, ricordate, anche domani, come stasera, come ieri, come dopodomani, ci sarà di nuovo questo appuntamento specialissimo con Radio Plaza alle 21.30. E per chi volesse fare un bel regalo? Per chi volesse fare un bel regalo dai 6 ai 99 anni, consigliamo un libricino bellino, piccino, pubblicato da Gallucci Editore, un volumetto illustrato da Emanuele Luzzati di 32 pagine, della canzone di Enzo Iannacci scritta da Dario Fo, Ho visto un re. Ho visto un re è infatti una favola con tutti i personaggi delle favole che però svelano la realtà, dove c'è un potente che si inchina solo a uno ancora più potente e dove al popolo di fronte all'abuso e alla tracotanza non rimane che riderci su. Allegato al libro c'è il CD con la canzone che andiamo ad ascoltare immediatamente. Dai, scritto sì, mi ci trovo, proprio sì, vabbè, dai, scritto sì, vabbè, sì, dai, scritto sì, mi ci ho visto un re, se la riscuse, ho visto un re, un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime, ma tante che bagnava anche il cavallo, povero re, e povero anche il cavallo, sì beh, sì beh, e l'imperatore che gli ha portato via un bel castello, di 32 che lui cena, povero re, e povero anche il cavallo, sì beh, sì beh, sì beh, ho visto un vescovo, se la riscuse, ho visto un vescovo, sì beh, anche lui, piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano. La mano di chi? La mano del sacrestano. Povero vescovo. E povero anche il sacrista. Sì, beh, sì, beh, e il cardinale che gli ha portato via un'abbazia. Oh, per Cristo. 32 che lui cena. Povero vescovo. E povero anche il sacrista. Sì, beh, sì, beh, ho visto un ricco. Se la scuse? Ho visto un ricco. Un show. Sì, sì, beh, sì, beh. Il tapino lacrimava su un calice di vino ed ogni goccia andava diretta al vino. Sì, che tutto l'annacquava. Povero tapino. E povero anche il figlio. Sì, beh, sì, beh, il vescovo, il re, l'impero. innamorato di 32 che lui cena. Povero papì. È povero anche il vin. Sì, beh, vabbè, dai, sì, dai, dai, dai, dai, vabbè, dai, dai, sì, sì, sì, sì. Visto un vilan. Sai, scusa? Un contadino! Vabbè, sì, beh, vabbè, sì, beh. Il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, perfino il cardinale, l'ha mezzo rovinato, gli han portato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, la radiotransistor, i dischi di Teltoni, la moglie. E per cos'è? Un figlio militare. Ah, beh, sì, beh. Gli hanno ammazzato anche il maiale. Poi il purcell. Nel senso del maiale. Sì, beh. Ah, beh, sì. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava. Ma Salemma? No, il fatto è che noi viviamo. Noi viviamo. Sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo. Ed è arrivato il momento delle suggestioni e dei suggerimenti dell'unico tuttologo che ci piace. L'imperdibile spazio di arte e cultura su Radio Plaza, altre storie a cura di Richard Madoc. Buonasera a tutte e a tutti e a tutto e benvenuti alla quotidiana rubrica. Oggi è sabato. E non ricordo bene di cosa dobbiamo parlare, non sono poi così esperto dopo tutto. In realtà sì, dobbiamo parlare di sovranità alimentare, che è il fil rouge che ha accompagnato le riflessioni di questa giornata della Gira Zapatista. E vi raccomando alcuni film, in particolare Surplus, un documentario molto interessante che parla degli squilibri fra nord e sud del mondo. Parla di come in una parte del mondo uno dei più gravi problemi di salute sia quello dell'obesità, mentre in un'altra parte del mondo c'è il problema opposto. È molto interessante, fa vedere ad esempio la realtà di Cuba, gli scaffali molto sparuti rispetto a quelli a cui siamo abituati, però con uno spreco alimentare anche molto inferiore. Non a caso è un paese del Sud America dove la mortalità infantile è completamente scomparsa. Questo non può fare a meno di ricordarmi a quando sono stato per un anno in Sud America, dove mi è capitato di vedere la prima persona che non fosse mio parente morta. Si trattava di una ragazzina, di un adolescente che purtroppo era morta per anoressia, ed era qualcosa di molto sorprendente, perché mi trovavo dentro una favela. E questo per far capire come la colonizzazione psicologica, mentale, anche culturale, poi sia talmente forte da arrivare ovunque, anche dove magari ci aspetteremmo meno. Infatti uno dei problemi classici che si affronta spesso quando si fa cooperazione allo sviluppo è far sì che le persone valorizzino i loro cibi locali e non si facciano influenzare dalla rincorsa, appena ne hanno la possibilità, di cibi occidentali che non hanno nulla a che vedere con le loro diete e che spesso sono in realtà fast food o junk food. E a proposito di questo, come non citare il famoso Super Size Me, la storia di Morgan Spurlock, o Spurlock, non so come si pronunci, che per qualcosa come 20 giorni, se non un mese, mangia esclusivamente da McDonald's, dimostrando il malessere che questo tipo di dieta procurava e come questi prezzi estremamente bassi andassero a colpire specialmente le minoranze, neanche più tali, povere, grazie a questi prezzi stracciati. Lui ha fatto anche un sequel di questo documentario, purtroppo forse meno visto, invece, dove lui provava ad avviare un fast food a sua volta, in particolare di pollo fritto, davanti a delle terribili contraddizioni del mercato capitalista americano, ma non solo. Infine vi vorrei consigliare un libro, La guida al consumo critico di Francuccio Gesualdi, un allievo di Don Milani, che da anni aggiorna questo manuale, questa guida, dove parla di tutte le ingiustizie commesse dalle multinazionali che noi avalliamo col nostro comportamento, spendendo i nostri soldi in qualche modo, esercitando quello che Becchetti chiama il voto col portafoglio, non riconoscendo che il nostro potere di consumatori è anche un potere politico e che noi siamo responsabili per le condizioni di lavoratori e delle lavoratrici del resto del mondo, quando scegliamo a chi dare i nostri soldi, quindi chi finanziare, con chi essere complici. E anche per questa volta vi saluto, il mio tempo in realtà è già scaduto da un po' e ci sentiamo domani. Era Moliendo Caffè con la voce di Xiomara Alfaro, conjunto di Mario Suarez e Amando Lovera, dall'album Moliendo Caffè del 2012, e questa è sempre Radio Plaza. Passiamo alla prossima rubrica, La favola della buona lotta. Hai visto come è abbassato i toni? Per la favola? O per la buona lotta? Per il piacere del nostro regista. Su Radio Plaza, La favola della buona lotta. E allora ascoltiamo da Fiabe Resistenti uno dei racconti del subcomandante Marcos, dal Chiapas per tutti e tutte, è La favola degli zapatisti e le mele, come dicevamo una raccolta di racconti del subcomandante Marcos da Fiabe Resistenti del 2014, e la fiaba che ascoltiamo stasera è interpretata dalla voce di Caterina Guzzanti. Radio Plaza. Gli zapatisti e le mele. Durito dice che la vita è come una mela. Dice anche che c'è chi la mangia acerba, chi la mangia marcia e chi la mangia matura. Durito dice che alcuni, molto pochi, possono scegliere come mangiare la mela. In una bellissima composizione di frutta, a purè, in una di quelle odiose, secondo Durito, bibite alla mela, come succo, in un dolce, nei biscotti o secondo i dettami della gastronomia. Durito dice che i popoli indios vengono obbligati a mangiare la mela marcia e che ai giovani viene imposto di ingerire la mela acerba. Ai bambini si promette una bellissima mela, mentre li intossicano con il verme della menzogna. E alle donne si promette una mela, ma viene data loro solo mezza arancia. Durito dice che la vita è come una mela. Dice anche che uno zapatista, quando si trova davanti a una mela, affila il coltello e con un colpo secco la divide a metà. Durito dice che lo zapatista non intende mangiarsi la mela, né si chiede se la mela sia matura, marcia o acerba. Durito dice che una volta aperto il cuore della mela, lo zapatista ne afferra con molta cura i semi, va ad arare un pezzo di terra e li semina. Poi, dice Durito, lo zapatista bagna la terra con le sue lacrime e il suo sangue e veglia sulla crescita. Durito dice che lo zapatista non vedrà fiorire né l'albero di mele né i frutti che esso darà. Durito dice che lo zapatista ha seminato il melo affinché un giorno, quando lui non ci sarà più, qualcun altro possa cogliere una mela matura ed essere libero di decidere se mangiarla in una macedonia, a purè, come succo, dentro un dolce o in una di quelle odiose, secondo Durito, bibite alla mela. Durito dice che il problema degli zapatisti è questo: seminare e vegliare sulla crescita. Durito dice che il problema della maggior parte degli esseri umani è lottare per essere liberi di scegliere come mangiare le mele che verranno. Durito dice che è questa la differenza tra gli zapatisti e il resto degli esseri umani. Dove tutti vedono una mela, lo zapatista vede un seme, va a preparare la terra, depone il seme e lo cura. A parte questo, dice Durito, gli zapatisti sono come chiunque altro. Forse un po' più brutti, dice Durito, guardandomi di sbieco mentre mi tolgo il passamontagna. Bella la favola di stasera. È stata l'entrata. Sempre per la felicità del nostro regista noi facciamo queste cose, così lui va a dormire sereno. Sì, la favola di stasera era una delle mie preferite, devo dirlo. E allora siamo ai saluti. Siamo ai saluti anche questa puntata di Radio Plaza. Sento un effetto meccanico della mia voce, non so perché. E perché siamo alla fine della puntata. La puntata sta finendo, poi prima o poi faremo... Vogliamo lanciare una raccolta fondi per un nuovo mixer, lo faremo. Vabbè, comunque chiunque volesse contribuire all'evoluzione tecnologica di Radio Plaza, è partita la raccolta fondi spontanea, molto spontanea direi, per appunto tipo il parcheggiatore. Adesso è migliore, eccolo qua, è migliorato. Tipo il parcheggiatore che ti dice un'offerta a piacere, 2 euro. Decide lui. Siamo arrivati ai saluti finali, eccoci, la puntata. Anche questa puntata è finita, bella squadra che ci accavalliamo, no? Una bella puntata. Ma oggi una lunga giornata, cosa sta pensando, una lunghissima giornata, incredibile. Da stamattina insieme siamo stati a Casoria, abbiamo parlato tutta la giornata di sovranità alimentare, di radio comunitarie, poi abbiamo fatto un incontro, abbiamo ascoltato la storia, cosa avevano da dirci le persone della delegazione zapatista arrivate in Italia, in Campania nello specifico, e intanto vi diamo appuntamento a domani sera 21:30 alla stessa ora Radio Plaza ritorna per raccontarvi la giornata di domani fino all'ultimo fiato di Anna. Sto per ritornare afona. Buonanotte a tutti, Radio Plaza. revolución nos llama.